in primo piano. In realtà l'apertura è dedicata praticamente in maniera unanime alla vicenda del Calabria. Ieri il presidente Napolitano a Reggio e questa macchina con dell'esplosivo ritrovato, davvero un po' inquietante. Napolitano, allarme a Reggio per il Corriere. Calabria, la sfida dei boss nel giorno di Napolitano, apre così Repubblica. Per la stampa Calabria, arsenale in un'auto, intimidazione a Napolitano. Il Messaggero, mai più un'altra Rosarno, e così via, insomma. L'apertura, cito solo quella del Sole 24 Ore, di diverso tipo, poi vedremo le altre, economica, viene dagli Stati Uniti, dove abbiamo sentito Obama, da una stretta di Obama sulle banche. Lavorate con noi, non contro di noi. È la seconda volta in pochi giorni che il leader della Casa Bianca attacca le banche in maniera frontale. Ma iniziamo proprio dalla Calabria, dove, come detto, nel giorno in cui Napolitano ha detto mai più un'altra Rosarno, dobbiamo prevenire, è stata ritrovata un'auto con armi esplosivi. Il procuratore distrettuale antimafia Alberto Cisterna, che è stato anche nostro ospite, uno dei massimi esperti della materia, dice al Corriere della Sera: non è che una provocazione dell''ndrangheta per rimarcare la propria presenza, una provocazione in stile corleonese, dice in questa intervista Carlo Macri. E in effetti questa è un po' l'analisi anche di Attilio Bolzoni su Repubblica, vale a dire: l''ndrangheta avvisa lo Stato e ora si teme l'effetto Palermo. Quell'auto con i suoi fucili a canne mozze e i suoi ordigni grezzi è stata messa lì apposta per farla ritrovare, è un atto dimostrativo. D'altronde, lunedì sono sbarcati in Calabria il ministro Maroni, il capo della polizia Manganelli, martedì il ministro giustizia Alfano, ieri Napolitano. Troppo per l''ndrangheta, ovviamente. È il caso Calabria che è diventato un affare nazionale per la prima volta. Troppo per le 143 famiglie abituate a spadroneggiare in quel territorio. Questa dunque è l'analisi prevalente. C'è anche un piccolo giallo della visita di Napolitano, che diciamo tutti i giornali mettono in risalto minore. Per esempio il Sole 24 Ore lo fa nella didascalia della foto che accompagna la visita al capo dello Stato. Vale a dire, c'è Giorgio Napolitano che stringe la mano a una ragazzina che porta il velo. La didascalia è questa: prima di intervenire il presidente Napolitano saluta alcune ragazzine, una delle quali porta il velo. Il sindaco di Riace, Domenico Lucano, accusa: non l'hanno fatta parlare perché portava il velo. C'è stata la smentita del Quirinale, ma pensate, questo dà addirittura spunto al Manifesto per fare il titolo di prima pagina. C'è proprio la foto di questa ragazzina che si chiama Fatima, 12 anni, il segreto di Fatima. E c'è questo caso che viene raccontato con davvero un'enfasi molto molto ampia rispetto agli altri giornali. Fatima è bellissima, coi suoi 12 anni e l'ambra dell'Oriente a colorarle gli occhi, il viso e le labbra. Ieri ha messo gli abiti buoni, i pantaloni, la maglia delle occasioni importanti. Fatima avrebbe dovuto parlare davanti al presidente della Repubblica Napolitana e al ministro dell'Istruzione Gelmini. Ma aveva il velo, Fatima. Rosa, dipinto con i disegnini bianchi a dare un tocco gioviale e sbarazzino al suo copricato, un suo copricapo, un hijab per bambina, l'aveva stretto in testa così non far scivolare nemmeno un capello lungo la fronte come vuole la tradizione islamica. Ebbene, questo, secondo la denuncia del sindaco di Riace, appunto, le è costato, insomma, il veto a parlare. Meglio il silenzio, non possono decidere loro. Peraltro la stessa Fatima, insomma, in qualche modo conferma, dice: non mi hanno fatto parlare perché porto il velo. A deciderlo è stato un uomo che si è avvicinato alla vicepreside della mia scuola e glielo ha detto: o toglie il velo oppure non può parlare. Allora mi hanno chiesto di toglierlo, ma io non ho voluto, ho deciso così perché non possono essere loro a scegliere cosa posso o non posso fare. E il sindaco dà la sua opinione, a dire: è assolutamente così, ci hanno chiamato forse una decisione da Roma, qualcuno forse dal Ministero, insomma un piccolo giallo per il Manifesto, un grande giallo per la verità, sulla visita di Napolitano. Proprio nel giorno in cui, e questo lo si evince solo dal Corriere della Sera, giusto per legarsi alla mafia, c'è questa mezza pagina, a pagina 21, il cui titolo è così: il prefetto, a Milano la mafia non esiste. Il prefetto Gian Valerio Lombardi ieri nell'audizione della commissione antimafia che era in visita a Milano per l'Expo avrebbe detto questa frase che scrive il Corriere della Sera, suona più o meno così: a Milano ci sono sì singole famiglie mafiose, ma la mafia non esiste. Il PD parla subito di vergogna, il prefetto Lombardi poi ha precisato, cosche sì, ma imprenditoriali più che criminali, però scrive il Corriere della Sera, questa frase ha talmente fatto scalpore, tanto che l'audizione in commissione è andata avanti e è dovuto slittare anche l'intervento della Moratti, perché insomma si è voluti concentrare sul senso di questa frase che ha pronunciato per il Corriere della Sera il prefetto di Milano Valerio Lombardi. Dunque andiamo a vedere la politica. Oggi si anima appunto per che cosa? Per innanzitutto ieri c'è stato il faccia a faccia tra Fini e Berlusconi, sempre le regionali in primo piano, ma anche la giustizia. È già definita la pace del branzino. Perché? Perché si sono visti a pranzo, evidentemente hanno mangiato un branzino. Così la deduco. Scoppia la pace del branzino, è andato tutto benissimo, si legge sul giornale. Pranzo blindato tra Berlusconi e Fini, perché, come scrive Francesco Verderami sul Corriere della Sera, questa è la novità. Fuori i secondi. Per una volta Berlusconi e Fini hanno parlato senza testimoni, faccia a faccia, come non accadeva ormai da chissà quanto tempo. E tra l'altro, scrive Verderami, si sarebbe raggiunto un patto tra i leader del PDL. Su che cosa? Sul processo breve, approvato al Senato un paio di giorni fa. Si aspetterà alla Camera per portarlo avanti, ufficialmente per problemi di calendario. In realtà l'intesa sarebbe questa: attendiamo fino al 25 febbraio. Che succede il 25 febbraio? Il 25 febbraio la Cassazione dovrà decidere sulla sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano che ha condannato l'avvocato Mills per falsa testimonianza, presupponendo il reato di corruzione giudiziaria susseguente da parte di Berlusconi. Sostanzialmente l'accordo è questo: se la Cassazione salva il premier, cioè respinge questa condanna della Corte d'Appello e dunque manda assolto Mills, o meglio dice bisogna rifare il processo, allora in questo caso l'accordo sarebbe il processo breve, verrebbe lasciato così, decadere, non serve più. Quindi attesa fino al 25 di febbraio. Per l'Unità però il processo breve è quello che conta nella politica. Diciamo basta, questo è il titolo di prima pagina, c'è Bobo, il personaggio di Staino, che urla vergogna e con la forbicina, come dire, ritagliate questa cartolina e speditela al Presidente del Consiglio dei Ministri, Silvio Berlusconi, Palazzo Chigi, Piazza Colonna 370, 00187, Roma. Diciamo basta, l'invito ai lettori è ritagliate appunto questa prima pagina con Bobo che dice vergogna, cosa votano al Senato e speditela lì. Allora, la politica, come detto, si anima anche per l'attacco frontale che da ieri è portato da Libero, da qualche giorno invece è portato sul Foglio, contro Emma Bonino. Ieri Libero titolava Presidente e abortista, ha tirato fuori una foto di Emma Bonino che praticava un aborto illegale nel 1975, dicendo guardate qui cosa fa con una pompa per gonfiare le gomme, asportava il feto dall'utero di una donna. Oggi Libero ci ritorna, il caso di Emma l'abortista, questo è il titolo di prima pagina, gli scheletri della Bonino. Il processo alla radicale per procurato aborto non si è mai celebrato, si fece leggere in Parlamento, fu salvata dall'immunità. Ci sono due commenti, uno sdegnato di Filippo Facci, che peraltro è un opinionista anche di Libero, che scrive «è difficile spiegare la vergogna personale che ho provato ieri nel leggere la vera storia di Emma, pubblicata in prima pagina su Libero». E qui non c'entra il giochino stucchevole del pro e contro, il libero pensiero. Penso che certa roba non dovrebbe trovare dignità di pubblicazione e basta, tantomeno in un giornale che ospita opinioni molto diverse, tra queste le mie. Insomma, Facci molto arrabbiato. Ieri in TV pare che abbia, non dico strappato, ma stropicciato addirittura la prima pagina di Libero. Gli risponde Maurizio Belpietro, il direttore di Libero, che dice «Sì, lo ammetto, ieri ho sbagliato. La prima pagina sulla Bonino non andava bene». Avrei dovuto pubblicare la fotografia di Emma mentre trafficava tra le gambe di una donna e l'aiutava ad abortire con una pompa di bicicletta, invece non l'ho fatto, non ho avuto lo stomaco. Dunque, dice Belpietro, ho sbagliato perché dovevo sbattervela in prima pagina quella foto lì. Ho pensato ai lettori che ogni mattina vanno all'edicola, a cui già dispensiamo quotidianamente lo schifo della politica, e mi sono chiesto, ce la faranno a reggere un'immagine così forte in prima? Ma Belpietro rivendica, non va cancellata questa storia, anzi va raccontata, e ci sono pagina 2, pagina 3, pagina 4, Libero molto duro. Oggi anche il Foglio ci ritorna, Chiesa di base con Emma. E due colonne in prima pagina, il Foglio con Giuliano Ferrara è molto molto duro da giorni nei confronti di Emma Bonino, l'abbiamo letto anche qui in rassegna stampa. Oggi c'è un primo viaggio di Marianna Rizzini a Viterbo, città di Papi, dove per la verità le testimonianze raccolte dicono: ma noi delle questioni etiche, del fatto della posizione etica di Emma Bonino, alla gente qui non importa nulla di questi argomenti, i problemi sono il lavoro, la sanità, insomma cose più concrete nel senso di giorno per giorno, di terra a terra, delle cose che ci riguardano direttamente, più da vicino. Dunque nel primo viaggio a Viterbo il Foglio dice effettivamente in questo viaggio a Viterbo la gente sta con Emma Bonino. La scomunicata, questo è il titolo di una pagina del Fatto di Marco Politi, vaticanista. Il cardinale Ruini contro la candidatura della Bonino, in ballo questioni etiche ma soprattutto sanità e scuola. Insomma, il tema c'è forte. Può Emma Bonino secondo voi rappresentare anche i cattolici del PD? Molti cattolici se ne sono andati via. Sarà nostro ospite anche Paola Binetti del PD alle 8.30, così come il segretario dei radicali Mario Staderini. Ne parleremo. Secondo voi Emma Bonino è la scelta giusta per il PD alla luce anche della sua storia politica? Votate su radio24.it o il sole24ore.com. Bisogna aggiornare il Cinzia Gate, di cui si parla a Bologna, pare in ogni bar, in ogni viuzza. Cinzia Cracchi è l'ex fidanzata del sindaco di Bologna Del Bono, che ha deciso di parlare, finito il rapporto sentimentale, dicendo sostanzialmente: andavamo in giro per il mondo, pagati tutti i viaggi, ora la magistratura vuol capire se quei viaggi sono stati pagati con soldi della regione. Vi lascio solo con il titolo della stampa, che è decisamente esagerato: il Tiger Woods di Piazza Grande. Cioè Tiger Woods sarebbe Flavio Del Bono, ma insomma adesso non esageriamo. Tiger Woods è stato scoperto con 10 amanti. Cinzia Cracchi era la legittima ex compagna del sindaco. Ma certo, questo fa capire come i giornali la trattano. Paginate ovunque, il Corriere ne uscirò pulito, ma il PD incalza Del Bono, ma è Repubblica che fa in qualche modo un piccolo scoop. Lo leggeremo dopo il traffico, perché Repubblica intervista Cinzia Cracchi, quella del Cinzia Gate. In primo piano. L'ho amato e ho perso tutto. Ora Flavio deve dimettersi. Parla Cinzia Cracchi, l'ex fidanzata del sindaco di Bologna Flavio Del Bono, lo fa con Jenner Meletti a Repubblica. Le offese no, non le sopporta. Stamattina, racconta, mi ha telefonato un'amica, mi ha detto che su un giornale accanto alla mia foto c'era quella della Daddario. Così sarei una di quelle io. Io, Flavio Del Bono, l'ho amato davvero, non una notte, ma 7 anni interi, mi sono rovinata la vita. Piange Cinzia Cracchi, bionda protagonista del Cinzia Gate. Se Del Bono dovesse dimettersi, non sarà la fine del mondo, uno come lui cade sempre in piedi, ma sa chi sono io? Io sono la vittima, una che ha cominciato a lavorare a 17 anni facendo la dada, quella che pulisce i bambini negli asili, li imbocca a pranzo. Poi ho fatto i concorsi, in comune, impiegata. Poi conosce appunto Del Bono, racconta. C'è stato chi mi ha avvertito, stai attenta, non ti puoi fidare, sei sposata, hai una figlia. Ma io avevo gli occhi bendati, ero innamorata e basta. Ho lasciato mio marito, nel 2003 ho seguito Flavio, che era diventato vicepresidente della regione, e tutto finì dopo una litigata nel 2008. Il giorno dopo, invece di fare la pace, abbiamo continuato a fare gli arrabbiati. Dopo qualche giorno capimmo che era finita. Lui mi disse che me l'avrebbe fatta pagare, mi ha mandato al centro unico di prenotazioni per la sanità a fare la centralinista. E così, ecco, la vendetta, insomma, è andata dal candidato sindaco, che era Alfredo Cazzola, che contrastava la candidatura di Del Bono, e gli ha detto tutto. Guardate che sono stata all'estero con Flavio Del Bono, pagava sempre lui i viaggi, con che soldi? Non so. E adesso con quali soldi vuole vederci chiaro la magistratura? Insomma, parla Cinzia Cracchi, ma davvero a Bologna non si parla d'altro, ma il caso sta diventando anche un po' più ampio, insomma anche Bersani se ne starebbe occupando. Mentre per chiudere la politica vi annuncio che Brunetta parla anche oggi sul Corriere della Sera, da Aldo Cazzullo. Il tema è sempre quello: mi candido a sindaco di Venezia ma rimango ministro, diventerà un po' un tormentone, tanto che il Repubblica con Francesco Merlo ieri l'ha definito invece del fannullone il fantuttone, cioè faccio tutto io. Oggi il ministro Brunetta peraltro risponde con una lettera proprio a Repubblica. Che cos'è la grande novità di questa intervista? Parla già di Venezia, cosa farò? Dice Cacciari, è una questione che riguarda lui, forse si ricandiderà anche, ma il suo ciclo è finito, lo dicono i veneziani. Venezia è un po' disillusa, è un po' va risollevata, ma dice i centri sociali sono i figli del declino e del degrado. La fine del declino sanerà questo vulnus. Non ci sarà più spazio per corpi estranei. Non ci saranno più pretesti e alibi, ma occasioni per tutti. Ovviamente i giovani avranno piena libertà di scegliere dove ritrovarsi, ma atteggiamenti antagonisti e distruttivi non avranno più avallo istituzionale. L'altro tema per chiudere la politica, diciamo, sulle tematiche che fanno discutere è quella della Lega nel Piemonte, perché Bossi ha parlato della TAV in un'intervista un po' sotto traccia a Telepadania, ma ora diffusa dal PD, dicendo guardate che errore politico ha fatto, la TAV non so se serve al Piemonte. Così parlò Bossi. Io non lo so, so che il Piemonte ha bisogno di restare collegato alla Lombardia, ma non so se ha bisogno della TAV. Pare Roberto Cota, candidato della Lega in Piemonte, ora in difficoltà, la Bresso, che è la candidata del PD e attuale presidente della regione, lo incalza, avete visto, alla destra l'opera non interessa, sono contro la TAV, eccetera, eccetera, eccetera. Si animerà la politica anche, secondo il giornale, ma secondo molti giornali, mancava davvero quello con le nuove foto in arrivo. Nuova ondata di sexy scandali, così titola il giornale Politica e ricatti a luci rosse. La vicenda riguarda sempre Corona. La procura di Milano riapre l'inchiesta sui VIP e sui paparazzi. Il fotografo Scarfone, che è quello che ritrasse l'ex portavoce di Prodi, Sircana, a Roma, quando si fermava con, credo, un transessuale, il fotografo Scarfone disse «Ne vedrete di tutti i colori». E il giornale ci fa il titolo di prima pagina, e all'interno Luca Fazzo dice un politico arrivò a pagare 300.000 euro per ritirare dal mercato il fotoricatto. Ovviamente non si dice quale politico dovrebbe essere. Si parla invece di foto a Michele Santoro e Beatrice Borromeo, al comico Leonardo Pieraccioni. Su Repubblica la vicenda è trattata così: fotoricatti, 20 casi sospetti, una vittima pagò 300.000 euro. E chi è sarebbe, secondo Repubblica, un po' il burattinaio di decidere quale foto pubblicare, quale occultare, eccetera? Alfonso Signorini, il potente direttore del settimanale della Mondadori. Chi? Staremo a vedere, ma temo, come dice Corona, che ne vedremo delle belle. Corona dice al giornale: preparatevi a nuovi scandali, ci sono le elezioni regionali e ormai la politica si combatte anche così, con le foto compromettenti. Di diverso taglio prendo al Sole 24 Ore la vicenda invece un po' più seria di Obama. Obama contro le banche, mai più colossi. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore, Mario Platero. Mai più il contribuente americano diventerà ostaggio di una banca troppo grande per poter fallire. Lo ha detto Obama, i gruppi non potranno investire in private equity né in hedge funds. Le operazioni di trading dovranno essere ridotte, insomma, la Casa Bianca contro le lobby finanziarie. E, ripeto, è la seconda volta in pochi giorni. Il presidente americano annuncia un piano per limitare le dimensioni e attività dei grandi istituti. Lo trovate a pagina 3, lo trovate con ampio risalto, ampie analisi. Come sul Sole 24 Ore voglio segnalare un articolo un po' di colore, ma in realtà anche interessante, vale a dire sulla semplificazione con svista. Che è successo? Sapete che Calderoli vuole tagliare, semplificare, via le leggi, solo che l'ultimo taglio nel decreto legislativo varato l'anno scorso ha colpito la disciplina che ha istituito gli ordini degli ingegneri e degli architetti. Insomma, cancellati gli ingegneri e gli architetti. Ovviamente un errore non intenzionale, precisa subito il responsabile delle professioni del PDL, che sta correndo ai ripari con un emendamento al mille proroghe. Cari ingegneri, cari architetti, il vostro ordine attualmente è stato cancellato. Non so se volete stappare una bottiglia di spumante, così si fa per ridere, oppure no. Voglio segnalare in chiusura l'idea di Pirate Bay. Pirate Bay cos'è? È l'ormai celebre sito internet svedese che da anni propizia la condivisione gratuita in rete di programmi e materiali digitali illegali, che da ieri ha prodotto un gemello ancora più seducente. Si chiama Predatore, o meglio iPredator, offrirebbe lo scudo più ambito per chi non tollera i controlli in rete, cioè l'anonimato. Almeno secondo le promesse del lancio pubblicitario, basterà pagare 5 euro al mese se potrà navigare sul web senza mai scoprirsi e rivelare la propria identità. Così scaricare materiali, copiare, esplorare, eludendo le richieste di chi esige il pagamento. L'idea di Pirate Bay, far pagare poco, 5 euro per non essere scoperti, lo trovate sul Corriere della Sera a pagina 25, una mezza pagina, insomma, per questo fenomeno svedese, nato in Svezia, ma si sta diffondendo davvero moltissimo. Ci fermiamo, il sondaggio. Emma Bonino, la radicale Emma Bonino, candidata PD del Lazio, è una scelta giusta secondo voi? Votate su radio24.it nell'home page o il sole24ore.com. Noi diamo la linea a GR24.